Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Fa male, fa male. È una bambina, fa male. Sono increduli a Santo Spirito, piccolo centro alle porte di Bari, alla notizia di tanto orrore. Una ragazzina di 12 anni diventata vittima delle violenze di gruppo. Gli aguzzini erano 5, 2 17enni, un 15enne e 2 13enni. La portavano in campagna per abusare di lei. L'incubo è durato un mese, lo scorso autunno. Poi lei ha dato le prime spiegazioni ai genitori che avevano notato che qualcosa non andava. Il resto è emerso dalle indagini dei carabinieri. La ragazzina è stata ripresa in una volta nella quale è stata costretta a dover soddisfare questi orribili appetiti da parte del branco, e proprio sulla scorta di queste riprese in seguito è stata costretta nuovamente a dover sottostare ai loro voleri. Non ho parole. Io sono un ex insegnante. Questo è l'episodio di cui si parlò molto un anno fa, accaduto a Piemonte, in Sicilia, un branco di ragazzini, probabilmente anche con il mutuo accondiscendenza dell'intero paese, perché poi nessuno ne ha fatto un gran dramma. Stupravano regolarmente una bambina e lo facevano nella capanna del presepe vivente. Ci sono le foto oggi sul Fatto Quotidiano. È un paradosso. Il luogo della rappresentazione dell'ipocrisia di una fede soltanto proclamata diventava quasi come una sorta di sberleffo, il luogo della ritualità dello stupro di questa bambina. La bambina è stata costretta dopo un anno ad andarsene con la famiglia in Germania. Perché? Perché a termini di legge molti dei suoi stupratori sono in giro per il paese, stanno facendo un programma di recupero e quindi era faticoso per lei incontrarla. La cosa che ha fatto riflettere, che al tempo fu fatto un giro da un inviato dell'area che tira, il programma l'area d'estate, scusate, il programma della 7, e non ha trovato nel paese di Piemonte un deciso e veemente senso di condanna. Ma chi se ne importava? Chi ha detto non importa? Il sindaco addirittura ha detto una ragazzata. Ora, su questo non trovo una circostanza originale. Io mi occupai di un caso simile proprio in Sicilia, ma cosa come 30 anni fa. Andai in un paesino dell'entroterra siciliano, anche lì era successa la stessa cosa. Stetti un giorno, questa ragazza stuprata dal branco viveva in una casa che era una casa molto particolare, c'era anche l'asino in casa. Era chiamata la babba perché era un po' ingenua. Oggi ho più strumenti per capire qual era il suo problema. Aveva dei piccoli problemi di relazione, quindi era il trastullo di tutto il paese. In fondo la consideravano quasi una sorta di nave scuola, addestramento alla mascolinità. Anche allora, e parlo di quasi 30 anni fa, non trovai nessuna condanna. Poi oggi un altro caso è successo, è accaduto un altro caso nella periferia di Bari. Lo stesso coso, lo stesso quadro, la stessa situazione. Anche qui una bambina, 15 anni, minorenni, 13-17 anni, la stuprano regolarmente. Anche qui, come nel caso siciliano, c'è lo stesso strumento di ampliamento del piacere, se piacere può essere chiamato, della bravata, dell'atto di esercizio di virilità di gruppo, che è il fatto che lo smartphone diventa sia lo strumento di additivo rispetto all'atto dello stupro, viene tutto filmato. Nel primo caso era il fidanzato, l'ex fidanzato, che poi l'ha portata in pasto ai suoi amici, e viene anche lei filmata, e viene detto: se poi dici qualcosa la facciamo circolare. A Bari è successa la stessa cosa, anche qui è un adolescente costretto a subire violenze dietro la minaccia di diffondere il video. Ora, chiaramente non vogliamo dire che tutto l'arco degli adolescenti italiani siano propensi a fare queste cose, però notiamo che esiste una sorta di maggiore spietatezza, maggior senso di complicità generale, maggior senso di impunità in fatti come questi. Quindi oggi vorremmo proprio riflettere sul fatto che ognuno di noi potrebbe avere in casa, se ha un figlio adolescente, un probabile complice di un'azione del genere. È diventato tutto facile, sembra tutto permesso, ci sono dei grandi esempi poi di esplicitazione della sessualità di gruppo, sessualità di massa, sessualità compulsiva, che non c'è niente di male, si è praticata tra adulti con piena possesso delle loro facoltà. ma che quello che si guarda la sera su YouPorn poi il pomeriggio possa essere fatto dalla più semplice, la più ingenua, la più indifesa, le proprie compagne di scuola, probabilmente ce ne passa. 800 24 00 24, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Il fidanzatino della ragazza quindicenne l'ha portata lì dove l'aspettavano altri 11 suoi amici pronti ad abusare di lei. Oggi quella stessa ragazza scappa via con la famiglia in Germania perché sono tornati liberi in paese i suoi aguzzini. Se n'è andata sta ragazza? No, vabbè, a me non mi interessano proprio queste cose. Non le interessano? Una ragazza violentata, 11 ragazzi. Non le interessa? No. No, non ci interessa proprio. Non mi interessa. Niente, non volevo sapere. Lui ci sembra questo fatto là. Basta. Ma non era un fatto grave? E basta, e basta. Il tribunale dei minori ha concesso agli 11 ragazzi di tornare alle proprie abitazioni in regime di prova. Questo è il caso di Piemonte. Erroneamente detto in Sicilia, ero così preso dal mio ricordo che era in Sicilia, Piemonte in Campania naturalmente. È il fatto che questa mattina è tornato sui giornali perché si riflette a distanza di un anno sull'abominio che una ragazzina si è costretta con la famiglia ad andare in Germania per non trovarsi a contatto con un clima che avete sentito. Poi non è che delle interviste si abbia la totale copertura di quello che è il sentire di un paese, però è chiaro che in realtà si tende a pensare che in fondo lei li abbia provocati, in fondo sia stata, come ha detto appunto il sindaco, un gioco da ragazzi. Mauro Manca, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Mauro Manca è una psicoterapeuta, ma soprattutto è un presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza. L'abbiamo spesso chiamata per parlare di casi di uscita dalla regola nel mondo adolescenziale giovanile. Abbiamo parlato con lei di autolesionismo nell'era digitale, generazione hashtag, abbiamo parlato di adolescenti disconnessi, l'idea di vivere eternamente connessi. Oggi parliamo con Mauro Manca su quella che è la circostanza forse originale per capire se è un elemento che accentua e diffonde l'idea che sia possibile lo stupro di gruppo fra adolescenti o semplicemente una modalità per capirlo, per comprenderlo. Tu hai studiato questi due casi, quello di Piemonte e quello di Bari? Assolutamente sì, quello di Piemonte l'ho iniziato a seguire appunto un anno fa. E purtroppo è un caso che è esemplificativo di tante altre situazioni. Adesso le violenze di gruppo, che per i ragazzi non sono violenze, purtroppo nella loro lettura delle loro azioni e di quello che mettono in atto, sono estremamente frequenti. Non è il sindaco di Piemonte, che appartiene a un'altra generazione, mentalità arcaica, non ha gli strumenti culturali a pensarlo, lo pensano i ragazzi stessi. Esatto, sono i ragazzi stessi che non si rendono conto. Andiamo a leggere anche che sono stati messi alla prova, ma alcuni di loro hanno dovuto seguire anche un percorso psicologico proprio perché non si sono resi minimamente conto ancora delle loro azioni e degli esiti delle loro azioni, perché quello che ci raccontano loro è lo facciamo per scherzo e per gioco, per cui non è solo un adulto che non si è reso conto che in quel momento stava violentando ulteriormente una ragazza che vive già in una condizione di estrema difficoltà a gestire, è quello che ha vissuto direttamente il confronto con un paese, e quindi rendere pubblico anche un'ulteriore violenza. Ecco, qual è il meccanismo per cui si crea questo cortocircuito? L'atto epico in maniera perversa naturalmente, della coercizione di una ragazza da parte del gruppo di maschi viene portata in un posto. Il caso di Piemonte trovo sia simbolico nel suo squallore. Ecco qua, ti faccio vedere la foto del giornale, la grotticina di legno con la stalla dove facevano il presepe vivente, dove sostenevano la Madonnina, da angioletti, da pastorelli. Quindi c'è un senso ancora più vigliacco e consapevole di quello che stanno facendo. Ecco, il rapporto questo, il rapporto, il fatto che poi esiste la diffusione immediata dell'atto e lo strumento di diffusione diventa anche lo strumento di ricatto. Lo strumento non è, come viene spesso detto, comunque la causa, perché oggi si tende a identificare il problema inerente appunto a filmano, quindi violentano per quello. Assolutamente no, è il testimone delle loro azioni. Le violenze purtroppo ci sono sempre state. Quello è un... Io ti ho citato un caso di 30 anni esatto. fa, lo ricordo come oggi, ci stetti 3 giorni, una situazione identica. Passeggiavo lungo la via principale di questo paese, tutti seduti nei bar, mi guardando con un sorrisino per dire ma che vuoi, dicevano. E tu tutti mi pigliavano da una parte, sapendo che era il giornalista a fare l'inchiesta. Dice, ma è quella che se l'è cercata, è lei che ha stuprato loro. Era una ragazzina poverina, anche con dei problemi, con dei deficit suoi di capire cosa le stava succedendo. Ma non è cambiato molto, cioè ancora oggi ci sono questi stereotipi culturali. Il problema è che filmano semplicemente perché questa è la loro normalità, e il filmato è il testimone di ciò che fanno, diventa poi il ricatto. Quindi quella che noi chiamiamo in termini più tecnici la revenge porn, che li autorizza in un certo senso a andare oltre e a commettere ancora, a reiterare quello che sono le loro azioni. Senti, il caso di Piemonte, se vogliamo proprio analizzarlo, parte proprio da un fidanzato che compie questo atto di punizione, poi sai, a 15 anni cosa mai può esserci di esperienza di vita, di punizione, affidando la propria fidanzata al gruppo. Quale meccanismo porta questo tipo di operazione, secondo te? In questo momento, in quel caso, il ragazzo si sente ancora più forte, ancora più assume un ruolo di dominante quasi all'interno di un branco, cioè addirittura io ti punisco in questo modo e ti faccio punire non solo da me, quindi non solo io, ma anche dai miei amici. Ma non c'è solo un discorso di punizione, noi abbiamo seguito tante altre situazioni come Osservatorio Nazionale Adolescenza, dove addirittura c'era la condivisione, quindi un discorso di anche una donna, quasi una ragazza, quasi oggetto da condividere e divertirsi con gli amici, e quindi questa violenza non è il primo caso, purtroppo è abbastanza frequente. Ci si assolve anche dal sintomo di debolezza che si manifesterebbe di avere un trascinamento sentimentale in questa storia, ma figurati, ormai era un giocattolo, giocateci anche voi. Esatto. Alessandra, buongiorno, 800 24 00 24, cominciate a dire la vostra su questo fenomeno, un fenomeno percepibile, un fenomeno che spesso appare nelle cronache, non sempre arriva nelle prime pagine dei giornali o arriva alla discussione dettagliata, però appare, sì, c'è, le procure sono piene di denunce, ma senza che le procure siano piene di denunce, ci sono casi che non vengono manco denunciati, vengono subiti. Le ragazzine poi dopo un po' lo confessano ai genitori, i genitori molte volte per vergogna o per incapacità di saper gestire la propria dignità attraverso strumenti legali, non fanno nulla. Alessandra. Buongiorno, senta, con tutto rispetto per la dottoressa che è intervenuta ora, io sono una semplice laureata allo IUSM, quindi qualche esame di pedagogia l'ho fatto anche io, mi sono occupata dell'educazione dei bambini. Non credo che i ragazzi non si rendano conto. Tra l'altro io quando ero piccina, da parte dei miei genitori c'è stata una netta distinzione nella mia educazione tra bene e male, quindi se io davo uno schiaffo, facevo violenza, anche verbale, sapevo benissimo già 10 anni, 11 anni, 12 anni cosa era bene e cosa era male. Se continuiamo a giustificare i ragazzi... No, guardi, no, scusi, Alessandra, tanto per capirci, nessuno giustifica, non è che i poverini non capivano. Il discorso era esattamente il contrario, non è che non capissero. Abbassa la radio però. Abbassi la radio, Alessandra, se no non posso... L'abbasso, però sento la voce lontanissima al telefono. Se no non sente nessuno. Dicevo, non era detto in senso assolutorio, che non hanno gli strumenti di percezione di quanto poi possa essere profondo e reiterato nel tempo il male che fanno. Lo sanno, no, che fanno una stronzata, chiaro, però lei è convinta che ci siano, si confronti con Maromà. Non hanno gli strumenti, io ho fatto l'esempio adesso, sì, ma non è che li giustifico. A 10 anni già sapevo che cos'era male e bene, cioè qui il problema è che sono abbandonati a loro stessi, probabilmente non hanno un'educazione. Io mi ricordo che ci si sedeva a tavola la sera e si parlava senza televisione. Sì, però Alessandra, non facciamo il solito presepino della famiglia di una volta, non c'è più quella, scordiamocela, è dimenticata. Rifacciamola un piffero, non bisogna trovarsi altre maniere, tornando indietro si risolve, quello è un modello passato, non ci sono le più famiglie a tavola col padre che si parla, ci si confida, si passano i valori, ammesso che fosse un modello che allora aveva un senso, oggi non c'è più questa cosa, ma ora manca. Resti lì, Alessandra, perché è un dibattito. Non è che... Io credo che non si debba confondere il comprendere quello che è un meccanismo che spinge dei ragazzi con la giustificazione. Il fatto che si comprenda quello che scatta dentro non significa che io o comunque una categoria giustifichi minimamente questo tipo di azioni. Il problema è che si rendono conto di fare una sorta di bravata, ma messa tra 20 virgolette, ma non si rendono conto del reale esito a lungo termine, delle conseguenze quindi che hanno le loro azioni, del danno che creano psichico, perché per loro in quel momento è un gioco e un divertimento. I ragazzi sono circoscritti alla fase del presente, non al futuro. In questo senso è quello che io cercavo di spiegare. È ovvio che l'educazione sia quella che manca alla maggior parte di questi ragazzi, che crescono senza un senso delle relazioni, un senso dell'affetto, dell'empatia, e quindi di mettersi nei panni dell'altro. Manca un sostegno della famiglia, l'abbiamo detto tante volte, ma questo non giustifica. Alessandra, altra cosa. Appunto, cioè voglio dire, ripeto, sin da bambini sappiamo cos'è bene e cos'è male. Una carezza è bene, un pugno. Vabbè, Alessandra, ho capito. Stiamo cercando di articolare un discorso. Lei me lo trasforma in un manicheo. Sappiamo. Lei non può sapere cosa sappiano tutti gli altri. Scusi, i due esami in pedagogia non consentono una presa di posizione così estrema. Mi scusi, non è che vorrei dirle. Stiamo cercando di capire. Lei dice, una volta c'era la famiglia, io parlavo a tavola con i miei genitori. Oggi non c'è più. O se c'è la famiglia a tavola, ognuno ha il suo smartphone in mano, ognuno assorto nel suo mondo parallelo. E non è che possiamo con una bacchetta magica ritornare ai bei tempi del mulino bianco. Oggi è questo, dobbiamo capire e circoscrivere e comprendere e portare degli elementi di civilizzazione in un mondo che è cambiato. Lucio. Buongiorno. Lucio? Sì, pronto, buongiorno. Sì, l'ascolto. L'ascolto, Lucio. Volevo dire, si dica però, sto aspettando. È un grave problema di mancanza di educazione parentale qui. Cioè, Lucio, o parla con me o fa un'altra cosa, 23. Si decida. Non è che... Pronto? Sì, la sto ascoltando, esprima il suo parere, Lucio. Vabbè, lasciamo perdere. Dico, ho due figli, uno di 23 e uno di 27. Sì. Non avrebbero mai pensato di fare cosa del genere. Lo so, lei è bravo, avrà una croce al merito. E poi è questione di educare i figli, bisogna seguirli, bisogna starci dietro. Dove sono questi genitori? Sì. Se mio figlio fa una cosa così, lo gonfio come un calzino. Sì, vabbè. Non si giustifica. Ed è l'educazione che manca. Detto questo? Detto questo... Bisogna curarli con non rimandandoli a casa. Con sistemi più severi. Bisogna trovare delle misure coercitive che gli facciano capire la gravità della cosa. Cioè, diciamo, il problema è che sanno che non hanno comunque una pena, sono impuniti. Ma molti sono minorenni e le leggi sono queste. Signori, basta con questa storia, sono minorenni poverini. Ma poverini, la parola poverina non è uscita mai da questo microfono. Quindi comprare una ragazza anche se hai 15 anni ti fai 10 anni di galera. Quando esce 25 hai capito. Secondo lei, diciamo, con delle leggi più severe si risolve il problema, si circoscrive il problema. È un parere suo, non è che voglio. Lo diceva il Cesare Beccheria, Sì, vabbè. Signori. Va bene. Buona giornata, Lucio, buona giornata. Ma ora manca. Allora, sicuramente il fatto che si sentano impuniti da un certo punto di vista è ovvio che li porti anche a trasgredire, andare oltre con molta più facilità. La stessa cosa accade anche per gli adulti. Esatto. Nonostante le leggi restrittive, le misure sullo stalking continuano a essere stalkerizzate le donne, gli uomini pensano comunque che alla fine la faranno sempre franca. Esatto, quindi fondamentalmente il problema non è che aggravando una pena o comunque dandogli una certezza della pena il tutto venga riso. È indubbio che sicuramente in certi casi lasciarli impuniti significa non rieducarli. Il problema è che se lasciamo una punizione fino a se stessa e non li rieduchiamo, tra 10 anni, 5 anni, 4 anni non cambierà assolutamente niente. Pensare alla rieducazione del minore soltanto, quando l'humus della società in realtà non solo li protegge ma alla fine minimizza, è un po' difficile. Questo perché non posso sembrare sprezzante nei confronti dei pareri del pubblico, sono non pareri. Portare sempre il quadretto felice della propria situazione personale, dicendo a casa mia non succede, i miei genitori mi parlavano, i miei figli li prenderei a calci se stuprassero, non è la maniera per portare dei contributi alla riflessione seria e profondi. Spero che questo lo faranno gli ascoltatori tra qualche istante chiamando all'800 24 0024. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, oggi stiamo parlando degli stupri collettivi fatti da bambini, adolescenti, ai danni dei loro coetanei, stupri in cui l'aspetto della moltiplicazione sul web ha una sua circostanza additiva notevole, ma come ha detto l'ospite Maura Manca, che ricordo presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza, non è che i ragazzi lo fanno perché oggi c'è internet, l'hanno sempre fatto probabilmente, oggi si ha maggior possibilità di scoprirlo perché ne lasciano una traccia più evidente, ma quello che è facile percepire che non hanno nemmeno l'esatta consapevolezza di quanto profondo e prolungato nel tempo possa essere il male. Faccio una parentesi, l'apro e chiudo velocissimo, non c'entra nulla con l'argomento di oggi, non assimilatelo, ma ieri ho fatto una trasmissione per cercare di capire se in qualche maniera consideravamo il passo indietro rispetto ai progressi in dignità che abbiamo fatto nel fare degli sforzi su noi maschi, nel riconoscere alle donne un ruolo non subordinato. Il caso di Sulmona, delle ombrelline di Sulmona, oggi il Corriere della Sera apre un titolo a pagina intera: ero lì con l'ombrello ma non mi sento umiliata, che male ho fatto? Parla Daniela, 29 anni, studentessa di economia. La studentessa di economia non si sente umiliata di essere stata lì con l'ombrello in mano a reggere sulla testa di un papavero locale. Claudio, buongiorno. Sì, pronto. L'ascolto, buongiorno. L'ascolto. Sì, innanzitutto volevo dire che soprattutto del servizio mi ha colpito l'humus che gravava intorno al paese dove viveva questa ragazza. Le persone troppo spesso girano la faccia dall'altra parte e questo è un male nazionale, non è solo magari al sud, ma oggi molte persone pensano molto di più a se stessi. Se fossero intervenute prima probabilmente si sarebbe risolto qualcosa. Sì, che poi sono atti di violenza, sono reiterati nel tempo, non è che sono andati una volta, era un'abitudine, era una sorta di ritualità, la portavano nella capannina del presepe vivente e la stupravano. Certo. E poi un'altra cosa è che secondo me la soglia della punibilità deve essere abbassata, non si può più pensare che solo il 18enne subisce un processo normale, ma la soglia andrebbe abbassata almeno a 16 anni. Perché diciamo c'è una maggiore consapevolezza, cioè l'età adulta, la maturità arriva un po' prima rispetto a qualche generazione fa. Certo. Assolutamente. Sei d'accordo, Maura Manca? Da un lato sì, assolutamente, però dall'altro bisogna dire che magari non fare di tutto un erbo un fascio, ma fare le singole valutazioni, cioè valutare i ragazzi minorenni che possono avere anche 14 anni o meno e capire realmente quanto sono già strutturati e consapevoli. Allora lì direi che possono anche essere puniti. Andiamo avanti, Claudio. Però perché se ne possa fare veramente una valenza nei tribunali, bisogna farlo per legge, abbassare per forza 16 anni, perché non si può pensare che un 17enne consapevole di tutto prenda una pistola, si dà una persona e oggi possa essere processato come un minore e cavarsela con poco. Troppo comodo, troppo facile, troppo spesso, anzi vengono utilizzati. Questo è un dato di fatto. Malavita. Ancora trattiamo da ragazzini persone che in realtà sono adulti strutturati a tutti gli effetti. Questo è una cosa senz'altro oggettiva. Non sono più bambini, non sono più ragazzini. Sono più ragazzini molte volte i padri quarantenni, sono molto più infantili, molto più destrutturati i loro figli. Antonio. Antonio. Pronto? Sì, l'ascolto. Dottor Nicoletti? Sì, l'ascolto. Buongiorno, io volevo, intanto premetto che non ho una conoscenza degli ultimi fatti riguardo al caso che lei ha parlato di questa ragazzina. Io volevo soltanto fare un accenno, un po' come ha fatto lei all'inizio, riguardo situazioni calate in tempo più lontano. Io posso esprimere un caso nel mio paese, 40 anni fa, quando ho appena venuto a abitare qui, e avevo 14-15 anni, era capitato un caso analogo, tutto il paese sapeva, questa ragazzina pare in modo consenziente accettava insomma di condividere con parecchi suoi coetanei, quindi 13-14-15 anni, questa esperienza. Il caso è uscito ufficialmente solamente quando è partita una denuncia, pronto? Sì, sì, l'ascolto. Mi scusi, non sentivo. Sul modo consenziente, Antonio, non è che una ragazzina si difenda, è chiaro che esistono delle forme di coercizione e di pressione, per cui non è che la ragazzina ci andava lì perché si divertiva, sì, come una matta. Il caso di cui sto parlando si configurava così, mi creda, si configurava. Dopo, cioè, non lei ci andiamo tutti, vabbè, era cattato fuori ufficialmente soltanto quando era partita da parte del padre una denuncia, perché sembrava fosse rimasta incinta. Per succedere. Cui era apparso un elenco di soggetti molto numerosi che l'avevano frequentato. Dopo è sparito tutto perché probabilmente lei non era incinta. Poi faccio un esempio, Antonio, dal suo punto di vista. Ammesso e non concesso che la ragazzina avesse una sua precocità di autodeterminazione, come sentisse come l'eroina di un film hard e avesse detto andiamo ragazzi, mi diverto. Ma lei come vede dei ragazzi che vanno in gruppo a fare la festa, fra virgolette, una ragazzina, seppur consenziente, tutti assieme, certo, così? Certo. Guardi, io li conosco tutti questi ragazzini, sono tutti uomini oggi, padri di famiglia. E come sono diventati? Mi faccio questo interessante, cosa sono diventati? Glielo dico in profilo dopo 40 anni. Questo sono è interessante. Tutti bravissime persone con dei figli. Sono tutti ragazzi, io ho 54 anni, quindi loro hanno la mia stessa età, un anno in più, un anno in meno o lì intorno. La ragazza stessa, io poi seppi, ma ormai si cala lontano nel tempo, che si è sposata, una vita normale, tutto dimenticato. Ma tutti sanno, c'è questa qua 30 anni fa. No, perché ha cambiato paese, si è sposato con un ragazzo, un paese vicino, un bravissimo ragazzo, tutto è continuato normale. Quindi diciamo, rientra nella norma, diciamo, dei rapporti sociali. Non so, può essere io, può essere lei abbia ragione, l'ascolto. Allora, dottor Nicoletti, secondo me le bravate sessuali erano nascoste da una specie di... Guardi, Antonio, le dico, nessuno qua è... Io mi ricordo perfettamente, negli anni in cui andava di moda il travoltismo, nella febbre del sabato sera c'è una scena di una ragazza non particolarmente avvenente che John Travolta, che era il figo della discoteca, rifiuta, e lei si dà ai suoi amici. E poi c'era questa famosa scena che in macchina ci sono gli ragazzi che diciamo abusano lei, era consenziente, anche se era in qualche maniera una situazione strana. A Perugia, città di Perugia, nella discoteca più figa di Perugia, la sera spesso accadeva che nel boschetto di fronte alla discoteca, ragazzi che poi sono stati tutti grandi professionisti, me li ricordo tutti, non li cito perché non ho diritto di farlo, facevano esattamente la stessa cosa, una ragazza sempre di ottima famiglia, un po' semplice, che acconsentiva di starsene dentro questa Mercedes, e fuori c'era la fila, c'ho davanti agli occhi la fila di ragazzi che oggi sono tutti professionisti stimatissimi, davanti alla macchina, tutti intorno, lei dentro, e un dopo l'altro entrava. Quindi è una cosa che è sempre esistita, ragione, ma ora manca. Beh, consentire è appunto il problema. Tra virgolette, se poi la conoscevi, capivi che è una ragazza piena di problemi, era la maniera che aveva lei, non bellissima, di non interagire, standard, di farsi considerare, accettare, essere membro di un branco. Il discorso qui è quando si tratta invece di di violenza, quindi di costrizione e di ricatto soprattutto. Perché il problema è che quando si è così piccoli, perché adulti è un altro discorso, ma quando si è così piccoli si ha il terrore anche del confronto con la famiglia, con i genitori, del giudizio, come ha detto anche Antonio. Comunque ha dovuto cambiare casa, ha dovuto cambiare paese, ha dovuto andare da un'altra parte, perché sennò sarebbe stata vittima comunque di un pregiudizio, una violenza reiterata. Quindi, nel tempo. Vorremmo arrivare forse a questa scellerata conclusione: è sempre esistito, è una sorta di regolatore sociale, oggi perché ci sono i social lo sappiamo e quindi devi cambiare paese, è così? Cioè, i social sono solo il testimoniano ciò che fanno e ciò che da un lato è sempre esistito, sembra amplificano ma non creano. Quindi questo non è un fenomeno contemporaneo, non no. Sono giovani oggi, cioè, è un fenomeno che sta in aumento, ma semplicemente perché è tutto completamente cambiato in termini di basi e di punti di riferimento, sono molto più allo sbando e allo sbaraglio e molto meno contenuti, per cui è normale che ciò che era prima oggi è amplificato. Quindi nella società occidentale mediamente civilizzata, economicamente benestante, esiste ancora questo residuo comportamento che i maschi si uniscono a branco e ogni tanto, consenziente, non consenziente, convinta, mettiamoci quello che vuole, praticano questa sorta di rituale della monta collettiva di una ragazza. Assolutamente sì, e per i ragazzi diventa un divertimento. Questo non è una giustificazione. No, no, non giustifico, ben domanda. È loro io. Che non si rendono conto, cioè stanno facendo una bravata, sì, ma non si rendono conto che è violenza. L'ascoltatore così civile ci ha detto, guarda, è successo nel mio paese, oggi sono tutti bravissimi professionisti, padri di famiglia, quindi non c'è un elemento patologico o di trasgressione viscerale in queste persone, è qualcosa che ancora galleggia nella nostra società, che può accadere. Da un lato assolutamente sì, però come dicevamo in questo caso, dall'altra parte era consentiva comunque quel tipo di comportamento. Un altro discorso è quando c'è una presa di forza e una violazione, una violenza dove io ti prendo e ti porto. Lì ci devono essere delle dinamiche interne che comunque sono già problematiche. Il caso che ho citato, ma altre mille persone a mille parti d'Italia potrebbero citarmelo, della ragazza nell'automobile davanti alla discoteca. Non c'era il problema di diffusione, non si poneva il problema a lei e gli altri, forse perché era ubriaca, erano tutti ubriachi, un po' fatti, adesso non ricordo bene in quegli anni cosa passasse il convento. Comunque sia, nessuno si poneva il problema che il giorno dopo l'avrebbero saputo, lo sapevano tutti. Percorso Vannucci si ridacchiava il giorno dopo di quello che era successo di fronte al black box la sera sotto le pinete del Colle della Trinità. Ci fermiamo un istante. Melog, cronache meridiane. Stiamo dicendo cose che mi fanno riflettere, che tutto sommato esistono ancora, o esistono, esisteranno sempre delle aree che noi consideriamo arretrate, arcaiche, sbagliate, fuori del tempo che stiamo vivendo, fuori della civilizzazione che abbiamo con grande fatica raggiunto, che forse rimarranno sempre. Gli uomini hanno bisogno comunque si manifestano come tali in dei momenti di coesione di branco. E questi momenti di coesione di branco oggi leggiamo, ci scandalizziamo, ne prendiamo posizione, perché avvengono tra minorenni, avvengono con la propagazione della rete, ne parlano i giornali, ma le testimonianze degli ascoltatori, anche qualche mio ricordo, dice che in fondo sono sempre esistite queste cose. Questo non giustifica nulla, bisogna capire qual è la maniera, perché la civiltà in realtà lascia il suo segno, non sia soltanto di superficie. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Dunque, ho ascoltato prima, mentre tornavo, alcuni suoi interventi su delle persone che sono intervenute. Mi permetta di dirle che l'ho trovata un po' brusca, però può capitare. Cioè, nel senso, io non so lei cosa si aspetta dal pubblico, ma non è che può attaccare una persona perché dice cose assolutamente sensate. No, non sensate. Giorgio, no, è un'ora che aspetto. No, aspetti un'ora, per me può aspettare anche 6 ore, scusi. Questo è un dialogo, non è che esprime. Mi ha dato del brusco, sensate. Ho detto alle persone in questa trasmissione, poi le lascio tutto lo spazio. Non mi va che si faccia sempre il solito santino, a casa mia va tutto bene, allora non è utile telefonare. Io non voglio persone che mi portino l'esempio di quanto sono bravi, ma persone che mi diano degli strumenti di decodifica, di approfondimento del problema. Prego, Giorgio. Soltanto forse un'impressione, anche perché la seguo spesso e mi piace anche sentire questa trasmissione. No, ma sono brusco, è vero, è il mio carattere, sono brusco, non lo io nego. Sono come lei, quindi andiamo d'accordo. Volevo solo dirle questo: è chiaro che c'è un problema di limitata percezione del senso degli effetti di una violenza, ma questo non si ha solo in questa situazione così plateale. Nella società di oggi si ha spesso, sia anche quando si guida, sia in tutte le piccole cose. È come se la società avesse perso il senso della realtà, della verità. Provo a dirle questo perché io insegno in un liceo. Le potrei spiegare mille momenti in cui mi rendo conto, senza voler tirare in ballo la famiglia Brambilla o la famiglia Barilla, ma non è questo il problema. C'è un problema reale di contatto con la realtà, col senso della realtà, con la vita reale, dovuto ai social. Se lei questo lo vuole in qualche modo approfondire, io credo che possa essere legato anche a questa violenza. Lo facciamo molto spesso. È chiaro che la violenza c'è sempre stata. Lei ricorderà, magari un po' più grande di me, circa 40 anni, il diritto del CICEO. Non è che abbiamo bisogno della rete per avere la violenza negli uomini. Ma figuriamoci. Però è evidente, io se fossi in lei, proverei veramente a trovare, a suggerire, a proporre un qualcosa che porti le persone, non solo i ragazzi, anche gli adulti, a un contatto reale tra le persone, fisico e anche logico. perché io le dico che si sta perdendo assolutamente, e quello che è gradante sta diventando cibo per i media, a quasi asettico, mi dispiace, la metto in mezzo pure. È la lecita accusa, sentiamo fare tutti i giorni il cinismo, trattate tutto con il distacco delle persone che non sono coinvolte. Non è che trattiamo con distacco, è che dobbiamo raccontare e dare strumenti in questo particolare modalità che sto esercitando io. Una trasmissione non è che scopre nulla o dà notizie particolarmente diverse da quello che è il flusso delle notizie del giorno, però avendo un feedback collaudato col pubblico, una maniera di riscontro, cerca di portare le persone a portare degli elementi individuali, personali di riflessione. Il discorso che i social abbiano un ruolo, abbiamo detto, però i social sono molto importanti, non sono un elemento scatenante, sono importanti. Ennio. Buongiorno. Io ho 45 anni, vivo a Roma, però ho vissuto per 30 anni in un paese di 10.000 abitanti della Vellinese. Proprio ieri ho affrontato, a proposito dei social, una discussione perché un mio amico ha postato una riflessione, l'ha chiamata lui, in cui praticamente diceva che guardava delle ragazzine di 15 anni che secondo lui vestivano come delle donne di facili costumi di tanta età. Ma può succedere, sì. Chiaramente questo, gli ho detto, scusami, ma ti rendi conto che le stai etichettando come... Identificandole pure, l'ha fatto, dicendo anche chi erano quelle ragazzine. No, non l'ha detto, per fortuna, meno male. Il problema sono stati le decine e decine di like e le decine e decine di commenti, chiaramente di tutte persone del paese che evidentemente... parlavate di una realtà paesana, quindi tutti sanno di chi si trattava, non è che era perfetto. Esattamente, magari non lo so io che sto da 10 anni via dal paese, però loro sì, esattamente detto. Corrispondeva averlo scritto sul muro del municipio del paese, ecco, la stessa cosa, anche peggio. E io ho detto, scusate, ma vi rendete conto voi adulti, quindi ragazzi di 30 anni, genitori di altri bambini e bambine di 40, 50, eccetera eccetera, che state etichettando delle bambine, alla fin fine bambine, come donne di facili costumi soltanto perché vestono in un certo modo. Molto chiaro, Ennio, lei ha perfettamente colto il punto, ma ora manca quello che dice Ennio, è la giustissima conclusione di questa trasmissione. Se un padre si scrive su un social si vestono da zoccolo le ragazzine del paese, tutti sanno che sono le ragazzine, come se desse il via libera ai figli, fanne ciò che vuoi. Qui torniamo al se l'è cercata, e questo è il problema di oggi realmente, cioè in adolescenza le ragazze usano il corpo, l'hanno sempre usato per manifestare, esprimersi, ma questo non giustifica assolutamente né che siano etichettate come zoccole né che appunto siano vittime di violenza o di etichette, perché poi l'etichetta è una violenza. Quindi allora noi siamo solo superficialmente civilizzati, questa è la conclusione. Direi di sì. Di fronte a questo però tutte le disquisizioni che si fanno specifiche sul fatto dove andremo a finire con questi giovani, con questi ragazzi, con i social, con tutti i problemi che non riescono a capire e comprendere, cioè semplicemente sono l'esito del nostro essere ancora incivili. Se l'educazione è questa. Abbiamo ancora Gabriele, velocemente. Buongiorno, sono in completo disaccordo con la dottoressa Manca. Vabbè, lei non è più psicologa, si occupa di adolescenti, lei tutti i giorni sta a contatto con adolescenti, al di là del fatto sia psicologa. Ho fatto l'animatore per bambini per una vita, ma il problema non è neanche dei social, perché si è sempre fatto e sono centinaia di anni che si fanno queste cose, soprattutto nei paesi. E quindi? C'è una grandissima ignoranza. Viene denunciato, secondo me, un decimo di quello che viene fatto. Va bene, lei lo fatto che ribadire quello che abbiamo sempre detto. Un fenomeno che è sempre esistito, viene in superficie. Ma visto che oggi ci riteniamo civilizzati e lo osserviamo, non facciamo a meno di parlarne. Alla prossima.